da Far West. Corruzione, presunto pagamento di mazzetta, arrestato il sindaco con assessore, il vicepresidente del consiglio ordinale e l'impresario di un paesino. La pizzetta ruota intorno ad una presunta tangente per vestibulare l'affatto comunale per uno spettacolo musicale. È giunta in fretta al Bar Venezia una notizia shock, ragguaglio deplorevole da rimanere di stucco. Il primo cittadino è andato in ferie per un po', lo hanno scordato in un paesino da qui poco distante. Si mormora un complotto fra il prescelto, l'assessore e il vicepresidente del consiglio comunale. Non ci farà la bolla, hanno fregato il popolo, denari e gruzzoletto per la festa del patron. Oh! Hanno arrestato il sindaco, i domiciliari stanno, hey! E da una villa al mare sconta la sua pena. Lo solderanno al Grand Hotel, Petrusa finirà. Se attendono le sorti di Rossiano sta maestà. Ai ai ai ai, signor sindaco, che truffa, che pasticcio, occhio vivo e righe dritto, se ci scappa il lucciardone. Ai ai ai ai, signor sindaco, ci hanno fregato il sindaco, chiamate lo sceriffo, qui c'è aria da far questa. La relativa dell'impera è stata adottata per 31.5500, una somma che sarebbe superiore rispetto alle offerte di altre agenzie. Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dalla giudice per le taccine preliminari. Malevolenze, accuse, maldicenze al faraon. Scusassi, signor sindaco, ma è un problema veramente urgente. Qui manca l'acqua, in piazza il palazzo di città sembra il mercato della frutta, un bar, un break bread, fare back, back, back, back. C'è confusione, qui non si capisce più una minchia, non si sa più a che credere, colpevole o innocente, gente. Qualcuno prova a prendere la tua carica, direi. Ma i primi nel giro al trono sono alla Chilover. Hanno arrestato il sindaco e il domiciliari sta, da una villa al mare sconta la sua pena. Lo assolveranno al Grand Hotel, Petrusa finirà. Si attendono le sorti di Mosia Nostra Maestà. Ai ai ai ai, signor sindaco, è truffa che pasticcio, occhio vivo e ride dritto, se ci scappa il lucciardone. Ai ai ai ai, signor sindaco, ci hanno fregato il sindaco, chiamate lo sceriffo, qui c'è aria da Far West. Cittadini, io ho fiducia nella giustizia italiana e vi dimostrerò la mia innocenza. Mi prometto che continuerò a battermi per la collettività. Rialte agenzie, le ordinanze di custodia cautelare sono